24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani. Cioè, l'ha capita? Farò un master in bersanese. Non è più tempo per passerotti e tacchini, qua bisogna fare sul serio, cari ascoltatori, bisogna ora decidere, andare da Napolitano, ascoltare il capo dello Stato e proporre, perché è il momento decisivo per la formazione forse di un nuovo governo, chi lo sa. Oggi un secondo giorno di consultazioni, noi siamo qui, cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9, c'è il nostro oggi Carmelo Lauricella in regia. Il nostro alpino, chissà, apre già la serranda del bar, basta che lo chiami. Il caffè volentieri a tutti quanti. Forza, saluto anche Miriam Lucchetti in redazione. Ma no, ma che è sta cosa che ci parte sempre strada in diretta? Ma com'è possibile? Basta, non se ne può più! Tutte le volte io ho l'incubo già di dare le informazioni del traffico. Già arrivano alle 6.45 e appena parte sempre strada in diretta. Ma chi c'è sulla strada adesso? Nessuno! Sono tutti a casa a dormire. E basta, su. Vabbè, questo è il nostro Parlamento. Allora, voglio salutare Vincino, buongiorno e ben svegliato. Non so, mi metto la sigla delle strade in diretta, come se... Ma chi è che sta in strada adesso? Cioè, sono tutte a dormire oppure no, c'è molta gente che si sposta. Vincino, adesso tra poco ne parliamo, perché oggi c'è un numero incredibile che esce, il numero speciale del male. Un almanacco. Oggi un esce. Un almanacco papale. Il male papale, oddio. Già 84 pagine. Mamma mia, già tremo all'idea, il male papale. Non voglio vedere neanche mezza vignetta, perché temo le peggio cose. Un disegno a pagina, ogni tanto qualche omilia. Con l'omilia iniziale di Palomba, che è una cosa... Numero proprio... speciale, quanto costa? 3 euro soltanto, 3 euro praticamente regalato. È praticamente, mica come Vincino, ti presento ormai la tua accoppiata, Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama, che quelli avevano fatto uno speciale, quanto? 80 euro, 80 euro. 2 euro, è ancora in edicola, ci starà fino alla fine del mese di aprile. Lo speciale sul Papa, quindi pensate un po', lo speciale sul Papa di Panorama e lo speciale del male sul Papa. Francesco il lupo. Esatto, da parte noi e dall'altra lui. È chiaro. Allora, le consultazioni, ve le immaginate oggi la scena? Cacciari ha detto: darei un anno di vita per vedere Beppe Grillo che stringe la mano a Napolitano. Potrebbe portare Vincino, non so se vi ricordate, l'audio storico per spiegare come uscire dalle secche, no? Quello di Dario Fogli, porterà quest'audio. Potrebbe essere una soluzione, no? Ma magari porta dietro un registratore nascosto e poi alla fine sappiamo tutto. Questo sarebbe veramente un colpo di genio. Vincino, lo perquisiranno i corazzieri? Assolutamente no, al Quirinale non perquisiscono mai. Non hanno perquisito manco me una volta che ci sono andato. No. Una volta con Pertini. No. Fu invitata alla direzione del male, sì, e io ho detto: andiamo, siamo in 30, perché al giornale ha detto: se vai tu andiamo tutti. Io ho detto: siamo in 30, non se ne parla nemmeno, risponde l'addetto stampa, e quindi andammo in 3 soltanto. No? Solo Pertini poteva invitare la redazione del male. Che lui leggeva il Canard de Chenet, gli piaceva tanto, no? Raccontare questi episodi qua. Comunque, secondo me, io sul Foglio ipotizzo che Grillo fa l'imitazione di Bersani e lui si fotte dalle risate. Questo sarebbe, cioè, va lì e fa l'imitazione di Bersani. Sì, ragazzi, col sigaro in bocca, coso là. E poi, secondo me, l'unico che esce è il governo corazziere. Lui in carica, il maresciallo dei corazzieri, e tutti gli altri arrivano là al Senato, via. Sì, infatti. Pare che sia così anche su Repubblica. Bersani ha detto: Napolitano, sono pronto. E anche Napolitano pare che dica: anch'io. Grasso, chiamare Grasso, subito. Tortorella, potrebbe andare così, più o meno. Si fanno già altri nomi, a dire il vero. Ormai la fantasia è al potere, nel senso stretto del termine. Perché si parla di Onida, Valerio Onida costituzionalista, anche perché Grasso è un magistrato, cioè un ex magistrato per carità, però insomma in qualche maniera appartiene a una categoria che subito Tortorella, siete magistrato. No, magistrato, no, aspetta, presidente del Consiglio, no, già ci siamo liberati di Di Pietro, già ci siamo liberati di Ingroia, adesso arriva Grasso. Sai che per Ingroia io ho sempre sostenuto che era meglio che lo eleggessero perché avrebbe fatto meno danni, ma questo è un altro punto di vista. Peraltro sta in mezzo per ora Ingroia, no? Adesso due giorni fa era ai nostri microfoni, ha detto sì, mi è scaduta l'aspettativa l'11 marzo, aspetto che mi assegnino da qualche parte, poi decido, sempre col intanto tono, dal Guatemala lo cercano, il tono croziano, ha lasciato dei conti là in albergo. L'ho sentita l'intervista, è stata molto interessante. E che succederà allora, Maurizio Bersani? Per tornare su Grasso, è stato un ottimo magistrato. Proprio non ho niente da dire sul suo comportamento da magistrato, ci mancherebbe altro. No, ce ne sono le critiche su di lui, non possono appuntarsi. Secondo me non è fatto bene a candidarsi, perché un magistrato non dovrebbe mai candidarsi, da questo punto di vista. No, trovo che può andare meno bene di altri, per esempio, a un coinvolgimento eventuale del centrodestra. Qua adesso Ingroia proprio qua ha detto ho notato che il primo a congratularsi quando è stato eletto è stato Berlusconi, a Grasso è andato perché Ingroia ce l'ha con Grasso, ce l'ha a morte, anche se adesso sminuisce. Ieri sentite questa canzone, la conoscete anche voi, perché è della vostra vabbè, la conoscono un po' tutti. Se io avessi previsto Vincino tutto questo, la conosci questa? Certo. Attuali conclusioni, l'avvelenata di Guccini. No, l'ho messa perché ieri a un certo punto ho letto delle titolo. Madonie, una canzone delle Madonie, tipica. E accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza. No, ieri l'ho messa perché ieri ho letto questo titolo. Prodi, già ho sbagliato. Guccini, vorrei Prodi al Quirinale. Io in questo impazzimento della politica ero un po' stanco. Avevo capito che Prodi proponesse Guccini al Quirinale. Cioè che ormai si può fare tutto, no? Vincino non sarebbe male. Sì, poi Presidente, abbiamo sette nomi e girano sempre questi sette nomi, otto nomi, un poco di fantasia. Amato. Ecco, un nome che vorresti tu, cambiamo un po' le cose. Io? Al Quirinale? Renzi. Io l'ho già proposto, Renzi. Veltroni. Veltroni? Veltroni, no. Veltroni. Uno che sarebbe felice un giorno sì, un giorno no, inventarsi un editoriale: quanto è bella la politica, quanto è bella l'Italia, come siamo tutti belli, bravi, tutti insieme, ce la facciamo, blim blim bla bla. Perfetto. Soprattutto blim blim bla bla, non so. Tortorella, blim blim bla bla, non ho capito a cosa si riferisse. Veltroni. Ti sento male questo secondo. No, siamo qua. Veltroni. Blim blim bla bla, non ho capito. No, è così per interattivo, come si chiama là. Cioè lui chiacchiera, no? È un chiacchierone di quelli là. Viaggi di Stato in Africa, finalmente viaggi di Stato in tutta l'Africa facciamo. Vedi, lo sai qual è il presidente a me piaceva di più? Gronchi. Gronchi. Io quando ero bambino una volta ho visto Gronchi a Palermo sull'auto presidenziale, il Gronchi in rosa. Il francobollo, il francobollo. Era stupendo, elegante. Con i figli che facevano marachelle, però lui era elegante. Vabbè, qua Tortorella, Vincino propone insomma nomi nuovi. Tu cosa proponi invece per il Quirinale? Tanto qui si può fare quello che si vuole. Ognuno dice quello che vuole. Certo, se è proposto Dario Fo, ognuno può. Dario Fo, no, per carità. No, io sono per Emma Bonino. Emma Bonino, guarda che Emma Bonino è un nome che però torna sempre, ma non è... Andava bene 7 anni fa, 14 anni fa Emma Bonino, io l'avrei votata 7 o 14 anni fa, poi ha fatto altri 7 anni di pannella e non so se funziona ancora. Però tutto. Tortorella dice non va bene, perché? Io so già perché non va bene Emma Bonino, radicale, appunto, troppo laica... Io ho sofferto personalmente quando i radicali a questo turno elettorale sono stati esclusi dal Parlamento. Ho sempre pensato che i radicali fossero nel loro piccolissimo un faro di positività e di correttezza. Ho questa convinzione che è tetragona, ferrea, non niente, non lo smuove da niente, ma niente, i radicali sono i migliori nel senso tra i loro tanti difetti, voglio dire, anche quando io frequentavo il Parlamento europeo, tra i parlamentari italiani, questo tanti anni fa, gli unici che erano sempre presenti, preparatissimi, i radicali. Risultato fuori da tutto. Vincino, c'è uno via sms che ci propone Renato Zero al Quirinale. Ho un'altra proposta tipo radicale. Attenzione. Boato, un altro di quelli, è cattolico, è di sinistra, è un po' radicale, è preciso, veniva sempre alla Camera con borse enormi piene di documenti, è stato 23 ore a parlare senza interrompersi mai. Boato al Quirinale. Vabbè, ho capito, però insomma Marco, siamo su, non so, lo mettiamo. Io l'ho detto anche, lo ridico anche oggi, no, perché ieri un mio amico, un mio anche quasi parente, del Movimento 5 Stelle, qua della zona di Milano, mi chiedeva, devo proporre dei nomi per il Quirinale a Roma, mi giuro, e io via sms gli ho detto, Rodotà. Zagrebelski, no? Stavo leggendo in quel momento Repubblica e quindi no? Mi sono venuti in mente questi due nomi e magari ho contribuito, chi lo sa, e se no non lo so, no? Emma Bonino la vorrei anch'io. Ha inizio allora a questo punto, no, tra Zagrebelski, siamo tra costituzionalisti, allora il migliore di tutti è il nostro Ainis. Ha un bel nome, Michele Ainis, editorialista del Corriere, professore costituzionalista, pure di Messina, per cui insomma sud, nord, c'è tutto. Sentite ieri Renato Brunetta, abbiamo vinto le elezioni, già la nomina a capogruppo alla Camera, insomma. Un disastro immane, guarda, Schifani e Brunetta, ma come si fa? Abbiamo vinto assieme alla sinistra le elezioni, perso di 0,37 punti di percentuale, chiediamo che venga rispettato il risultato elettorale, non può essere che la sinistra prende il presidente. Capito, abbiamo vinto. Invece Berlusconi ieri è riapparso a Studio Aperto e ha proposto questo: il governo. Soltanto un governo stabile, un governo autorevole, un governo di concordia nazionale che scaturisca da una collaborazione concreta sul da farsi tra il Partito Democratico e la nostra coalizione può realizzare il governo di concordia. Quando ho sentito la parola concordia, Vincino, ho detto no, eccolo lì Schettino che torna, concordia, ho detto no. Ma già l'ha detto poi il peggior giornale d'Italia, quello là, la Repubblica, perché no, perché sì. Repubblica adesso? E Giorgio peggiore, cioè io leggo solo il Corriere. Oggi è in sciopero. Me lo sono fatto io un Corriere, tutto mio, guarda. Non, qual è il titolo del Corriere di oggi? Il titolo del Corriere tutto mio è Governo Corazziere. Governo Corazziere. Con un editoriale di Ainis, questa è la volta buona per il Governo Corazziere. Pensavo per me al Quirinale, questa è la volta buona di Ainis. No? Potrebbe essere, non so, Tortorella, ma che dobbiamo dire? Il governo di concordia nazionale è l'unica soluzione. Sostantivo infelice, purtroppo la recente storia marinara non aiuta. Era peggio se diceva il governo di scopo Berlusconi, perché lì si sarebbero scatenati, più. Andiamo a sentire. Il risultato è che è veramente un problema, perché seguire i grillini, e i grillini non vogliono stare con nessuno. Il PDL insegue Bersani, cioè sembra di stare a un gioco di bambini, purtroppo, e la situazione invece nel frattempo rischia di precipitare il governo. Andiamo ora a sentire le informazioni sul traffico, finalmente non vedevamo l'ora, e poi entriamo con la segreteria telefonica. 24 mattino. Ciao Alessandro, volevo dire che sarebbe il caso di rendicontare anche le scorte, perché non credo che sia giusto che tre uomini di scorta più un autista con relativa macchina di servizio accompagnino certe signore a fare la spesa. Non si capisce perché tutto questo snobismo al contrario. Il Papa dalla faccia accattivante che corre dietro ai poveri, e la Boldrini è grasso che si tagliano via di tutto e di più, ma semplicemente bisognerebbe cambiare le regole e questo nessuno lo fa, E questo è il dramma nostro. Buongiorno signor Milan, sono Grazia della provincia di Teramo e ascolto ogni mattina il suo prezioso contributo giornaliero a digiuno. Così non devo vomitare quando sento l'ipocrisia politica. Vi auguro buon lavoro. No, volevo chiedere al signor Bersani, di quei quasi 10 milioni di italiani che hanno votato il centrodestra, cosa ne vuol fare? Li vuol mandare ad Auschwitz? Il sistema fiscale svedese è l'unico modo per sistemare l'80% dei problemi in Italia, eliminando il nero, eliminando la corruzione e tutto quello che si mettono in tasca i politici, che sono d'accordo per non farlo, ma lo sanno benissimo che il problema è quello. Ah, meno male. No, volevo provare se il numero era esatto, perché lo segno di rincorsa la mattina, ma ci vedo poco e allora... Bisogna che controlli un po' la situazione prima. Ok, adesso appena ho l'ispirazione poi vi faccio sapere qualcosa anch'io. Vabbè, si è segnato il numero almeno questo ascoltatore, Vincino, si è segnato il numero, dice, poi vi faccio sapere qualcosa. Lo dico anch'io, 02-4652-4492, il numero della segreteria telefonica. Siamo con Vincino, siamo con Maurizio Tortorella. Oh, ieri... Due giorni fa è successa questa scena alla Camera, la scena da Prima Repubblica. C'era, hanno visto l'onorevole Zaccagnini mangiare al ristorante della Camera. Vincino, e uno dice... Sì. Com'è? Beh, era l'onorevole Adriano Zaccagnini del Movimento 5 Stelle, pizzicato dal settimanale Chi, a mangiare al ristorante della Camera, quel luogo che per i grillini è Sodoma, è Gomorra d'Italia, no? E ha detto, sapete cosa ha detto? Chiedo scusa, non sapevo che qui si pagava, ho pagato solo 15 euro, non sapevo che il resto era carico del contribuente. Ma come? Uno del Movimento 5 Stelle che non sapeva? Maurizio, il conto a sua insaputa, ma no, ma dai, del Movimento 5 Stelle. Sono all'inizio. Sono lì, ma faremo un opuscolo, faremo un male tutto per loro, guarda, ma... per questi che entrano. Dopo questo, da oggi smaltiamo questo sul Papa, no? Sì, sì. A proposito di Papa, adesso, sì. Cose serie invece. Oggi Panorama c'ha un documento esclusivo sul Papa. Ma com'è possibile, Maurizio? Avete ripescato un libro che l'allora cardinale, o forse non è ancora cardinale, no? Bergoglio ha scritto. Era cardinale. È un libro del 2010, sì. Scritto a due mani con il rabbino capo messicano. Sì. Abraham Skorka, che sto dicendo argentino ovviamente, è pubblicato in Argentina e di cui la Mondadori ha acquisito i diritti. Il libro sarà in edicola, si intitola Il Tierra e il Cielo, la Tierra e il Cielo in argentino, ovviamente è la Terra e il Cielo, certo. Ed è un libro molto interessante per capire Per capire anche come si muoverà il Papa, visto che c'è tutto il suo pensiero scritto con il rabbino argentino, sì, giusto, argentino. Certo che c'è questa foto, l'avete messa anche voi, fa storia, Vincino, il Papa in torpedone con i cardinali, no? Ci saranno delle vignette sul mare oggi che assolutamente di questo figurarsi cosa fa il Papa, sì, il Papa che dice buongiorno, buonanotte. Il Papa che si lava i denti, pure noi abbiamo, il Papa che si lava i denti, poi c'è il racconto, l'intervista ad Amalia, la ex, che racconta tutte le, sia sì, la ex sì, che sì, l'altro, l'ex, lui, no, perché erano due i fidanzati, una fidanzata e un fidanzato, a periodi diversi, lui non esclude nessuno, lui non è aperto, cosa, non è, cioè, come dire, non è, non è esageriamo. Non esageriamo. Allora sono arrivati i nomi per il Quirinale. Via SMS avete scatenato un casino. Gianni Letta, Frattini. Laminetti, no. Che ci tira su tutti. Così scrive. Laminetti non lo so, però Laminetti è giovane, è donna, è come dire. È donna, insomma. Si voleva. Poi sì, Bonino. È un abbonino un po'. Pronto? Sì, pronto. Che no, ero zitto. Ero zitto. Sergio Romano, Sergio Romano ci propone. Sergio Romano, così così. Cacciari, che sarà nostro ospite alle 8:15. No, Sergio Romano perché scrive sul Corriere, per cui io l'adoro. Perché Ainis, così così, ecco qua, sì. E poi c'è Rocco Siffredi. Vabbè, questo ve lo do. Rocco Siffredi è un classico, va bene. Vabbè, vabbè. Lasciamo perdere. Chi lo sa, chi lo sa. No, basta, basta. Questi sono i nomi che sono arrivati. Va bene, vi devo ringraziare e salutare. Allora, a Draghi anche arriva in chiusura. Draghi fa la sua figura, guarda, se come dire. Sì, chi lo sa, chi lo sa. Chi lo non sa. È che sarebbe il quarto, il quinto della banca, cioè noi abbiamo cominciato con Einaudi, no? Poi abbiamo avuto Ciampi. E poi, come dire, non è che siamo Draghi, dai, continuiamo a Draghi. Vabbè. Intanto vi ringrazio, Vincino, l'edizione del male straordinaria, uno speciale oggi in edicola, e Panorama che trovate in edicola, Così cambierò la Chiesa sul Papa. Grazie a Maurizio Tortorella, al Giornale Radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, eccoci cari ascoltatori, le 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali e vi ricordo gli ospiti di oggi che avremo più tardi dalle 8:15, avremo con noi Massimo Cacciari, avremo con noi il deputato Matteo Mauri del Partito Democratico, il giorno delle consultazioni, il giorno clou, quello in cui Bersani, Grillo, Berlusconi vanno per le consultazioni al Quirinale e poi la palla sarà in mano al capo dello Stato. E poi avremo con noi anche Marco Ferrante del Messaggero per cercare anche di capire, insomma, questo inseguimento a Grillo, i tagli, tagli, tagli, ma davvero tagli saranno? Saranno mica dei tagli annunciati che poi non faranno? Beh, perché oggi il giallo c'è proprio sui giornali, giornali che appunto andiamo allora a sfogliare. È giovedì 21 marzo, peraltro è primavera, no? Mi risulta. È così, dall'altra parte del vetro mi guardano facce basite, boh, così pare, così dicono. Allora, intanto, non troverete anche oggi per il secondo giorno consecutivo, è sciopero, il Corriere della Sera in edicola. Gli altri quotidiani, invece, il Sole 24 Ore apre sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, vale 250.000 posti di lavoro, così il presidente di Confindustria Squinzi, che invita ancora al provvedimento per sbloccare i 48 miliardi che avranno effetti positivi sul PIL con un più 1%, e tra l'altro pare oggi proprio che arrivi a Prodi il decreto, è un iter un po' più complicato che oggi il Sole spiega bene per cercare di sbloccare questi pagamenti. Repubblica, Bersani da Napolitano, sono pronto, oggi incontro decisivo. La Stampa, Bersani il giorno della scelta. Il Messaggero, governo, incarico appeso a un filo. L'Unità, governo, Bersani ci prova. Il Secolo XIX, governo, Bersani vacilla. Il Fatto Quotidiano, Grillo arriva al Quirinale, ma il duello è Bersani-Grasso. Libero, cosa vuole Grillo? Ecco il vero programma. Mentre il Giornale, Berlusconi torna primo, il PDL supera nei sondaggi il Partito Democratico nelle intenzioni di voto. Questo è il titolo del Giornale. Allora, che dire, i tagli, questi tagli annunciati dal Presidente della Camera e del Presidente del Senato, ma sono tagli effettivi? Adesso ci riduciamo del 30% lo stipendio. È partito subito il giallo. Il 30% de che? Perché questa è la domanda. Cioè, lo stipendio dei Presidenti della Camera e del Senato non è come dei deputati, non è che si compone di un'unica voce. E allora dire ci tagliamo il 30% è un po', insomma, una banale legge matematica, ma il 30% di che cosa? E infatti subito ieri è nato il giallo, Beppe Grillo subito ha rilanciato e guardate oggi alcuni articoli che fanno i calcoli. Libero con Franco Bechis, il vice direttore: Italia la paga dei presidenti delle camere sono appena il 7%, è un bluff. Il primo ad averlo capito al volo è stato Grillo, ormai esperto in materia. Lui è stato il solo italiano a non essersi bevuto tutto d'un fiato l'allegro e commendevole annuncio fatto dai presidenti delle camere Grasso e Boldrini: ci tagliamo lo stipendio del 30%. Ma quale stipendio, scusate? Se lo è chiesto solo Grillo, mentre tutti i principali media già cantavano i peana ai due nuovi potenti così sobri. E la domanda è più che fondata, scrive Bechis. Perché? Perché quello che è per ora annunciato e neanche deciso è solo il taglio alla indennità di funzione dei presidenti della Camera. E dunque questa indennità rinunceranno circa a 1.260 euro netti dell'indennità, ma nelle loro tasche arriveranno, come a tutti gli altri deputati, 13.810 euro netti mensili. Il taglio operato vale dunque solo su un fisso netto mensile di 18.010 euro ed è quindi in questo caso pari al 6,9%. Insomma, taglieranno, possono tagliare solo l'indennità di funzione dei presidenti della Camera, che è una voce, non neanche la più corposa, dello stipendio generale. Lo stesso tema c'è su Il Fatto Quotidiano, Caterina Perniconia, pagina 5, taglia stipendi e privilegi, i presidenti ci provano, rinunceranno a oltre 6.000 euro a testa, ma è questo che possono tagliare. Il taglio del 30%, chiede Il Fatto Quotidiano, riguarderà l'indennità da presidente, che è circa 4.000 euro, oppure tutto l'ammontare dello stipendio, che è di 18.000 euro. E questo, la risposta, non possono farlo, perché va fatto per legge, perché l'indennità da parlamentare è irrinunciabile, non si può rimandare indietro, è una questione di garanzia, anche costituzionale, e quindi loro possono solo tagliare, semmai il 30%, della indennità da presidente, che è questo 4.000 euro. Il risultato è che, come ha scritto Bechis su Libero, tagliano di fatto il 7% del totale dello stipendio che prendono. In realtà, scrive Il Fatto Quotidiano, la Boldrini ieri ha studiato tutto il giorno il regolamento insieme al suo nuovo consigliere politico Carlo Leoni, già vicepresidente dell'Aula, per cercare a questo punto di aumentare il taglio laddove può tagliare, cioè dell'indennità da presidente della Camera, arrivare magari al 50, al 60, al 70% del taglio di quell'indennità, in modo da incidere percentualmente sul totale e arrivare a una cifra che si avvicini a quel 30% di taglio annunciato in pompa magna anche in diretta televisiva. Ma non c'è niente, ancora nessuna conferma. Nonostante ciò, il giornale attacca i finti tagli dei presidenti della Camera, il trucco di Grasso e Boldrini, dicono di rinunciare al 30% dello stipendio, ma in realtà sono appena 1.500 euro lordi. Grillo intanto attacca, scrive anche Repubblica con Silvio Buzzanca, pagina 6, i presidenti dovevano dimezzarli quei tagli. In realtà uno legge l'Unità a pagina 4 e ci sono dei calcoli che, insomma, stridono un po' con i banali conti della matematica. 1 più 1 fa 2, così ci hanno insegnato. E invece leggete Natalia Lombardo, a pagina 4, un articolo: Camera e Senato, la spending review è cominciata. Pietro Grasso addirittura si è dimezzato lo stipendio, da 18.600 a 9.300 euro. La Boldrini meno 30%, da 17.760 a 12.500 euro. Ma in realtà, ripeto, non so, non si ha nessuna prova, insomma, c'è qualcosa che non va in questo calcolo. Uno poi arriva a metà dell'articolo e trova, udite udite, questa frase: il piano di tagli prevede anche più ore di lavoro, addio processioni di deputati e senatori col trolley il giovedì pomeriggio in partenza per il weekend extra large. E qui sentite cosa scrive l'Unità: non più 48 ore settimanali, bensì 96 settimanali, 20 ore di lavoro al giorno. Ma insomma, Ma come si fa a scrivere una cosa del genere? Non più 48 ore settimanali, non mensili, settimanali, ma 96 ore settimanali, 20 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Grasso avrebbe annunciato questo, secondo l'Unità. 20 ore di lavoro al giorno. Mamma mia, fare i deputati sembra diventato manco i minatori. Cioè, non farei il deputato manco con la pistola alla testa. 96 ore di lavoro settimanali, avrebbe annunciato Grasso, secondo l'Unità. Vabbè, diciamo che forse c'è un po', come dire, una rincorsa all'elegia anche di quello che sono gli annunci. È un po' la rincorsa, un po' il tema che vorremmo anche approfondire da 8:15, è la rincorsa al grillismo. Siamo tutti grillini, come ho detto due giorni fa. Ci mancava poco che annunciassero il taglio delle unghie dei senatori, tagliare tutto. E a proposito di tagli, un dubbio sorge leggendo anche la questione dell'abolizione delle province annunciata in Sicilia. Nino Amadore sul Sole 24 Ore, pagina 17, l'ok definitivo all'abolizione delle province. Il PDL dice: ma chi si farà carico dei 380 milioni di debiti delle province siciliane che vengono cancellate? Per ora certo sono state cancellate le elezioni che dovevano rinnovare i consigli provinciali la prossima, credo, primavera, estate, e dunque questo è un risparmio sicuramente. Però le province verranno sostituite dai consorzi liberi di comuni, tanto che anche sia il Sole sia il Fatto Quotidiano parla di abolizione virtuale delle province, cioè via le province, ma arriveranno i liberi consorzi dei comuni. I risparmi per ora, a parte le elezioni, questo certo è un bel risparmio, non sono ben quantificabili. Sarà mica una supercazzola anche questa? Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, il mistero delle ore lavorate alla Camera e al Senato, forse la versione migliore ce la danno due ascoltatori che dicono: guardate che si riferivano alla somma, 96 ore settimanali vuol dire 48 più 48, è giusto 48, 96 diviso 2 fa 48, non fatemi fare un'altra gaffa clamorosa. Che a quest'ora fare anche 3 meno 2 è un po' complicato. Può essere così, non lo so. Certo che scrivere 96 ore alla settimana di lavoro, uno lo specifica, oppure appare una cosa francamente difficilmente proponibile. In ogni caso ci sono mugugni al Parlamento su questo, ma tra poco li vedremo. Non è finito l'ampio capitolo dedicato a questi annunci di tagli, insomma questo inseguimento anche un po' sfrenato al grillismo, parliamoci chiaro. Ma concentriamoci sul tema politico più importante, vale a dire quello delle consultazioni. Oggi si entra nel clou perché dopo Monti e dopo altri gruppi minori oggi è la volta di Bersani, Grillo e Berlusconi come rappresentanti delle tre forze che hanno preso il maggior numero di voti. Andranno da Giorgio Napolitano, poi finiranno le consultazioni e poi Giorgio Napolitano deciderà se affidare l'incarico, se affidare che tipo di incarico, se affidarlo a Bersani come è presumibile almeno al primo giro, per verificare se ci sono i numeri per una maggioranza. Certo, al paese serve subito un governo, questo hanno detto i presidenti di Camera e Senato Grasso e Boldrini ieri, andando appunto e aprendo le consultazioni sul Quirinale. A pagina 13 del Sole 24 Ore leggete la cronaca della giornata politica, firma Lina Palmerini: serve il governo, perdere tempo sarebbe l'obiettivo recondito del chiedere un incarico esplorativo per Grasso. Questo è il retroscena che c'è sul Sole. In questo modo si conta di far passare i giorni, far scadere Napolitano, lasciare che la crisi venga gestita da un nuovo capo dello Stato di gradimento del centro-sinistra, ma un calcolo questo che non tiene conto della determinazione di Giorgio Napolitano a dare un governo al paese, a maggior ragione ora che la crisi di Cipro potrebbe avere esiti imprevisti. Cioè questo è il punto, dare un governo subito, tanto che retroscena su Repubblica che trovate in prima pagina firma Francesco Bei si legge: la cabina di regia al Quirinale, entrata in azione. Questo è il titolo dell'articolo Il piano B del Colle, un governo di scopo. Due sono i punti, scrive Repubblica, che Giorgio Napolitano ha bene in chiaro iniziando queste consultazioni. Il primo è la contrarietà del presidente all'ipotesi di nuove elezioni anticipate. Le elezioni non servirebbero a nulla, ripete a tutti Napolitano. Rischierebbero, in mancanza di una nuova legge elettorale, di riproporre la stessa paralisi al Senato. Il secondo punto è ancora più importante. Per avere la fiducia a Palazzo Madama servono i numeri e al momento quei numeri Bersani non li ha. Tuttavia il capo dello Stato non intende nemmeno contrastare la pretesa del segretario del PD di provarci comunque a dispetto dell'evidente ostilità del Movimento 5 Stelle. Ma potrebbe dire Napolitano non va confuso l'incarico con la nomina, cioè potrebbe dargli un incarico, una sorta di mandato esplorativo, ma la nomina è un'altra cosa. A quel punto non dovesse Bersani farcela, ecco che i nomi che circolano per guidare questa sorta di governo di scopo, cioè un governo che faccia qualcosa di ben definito, tra cui la riforma della legge elettorale e poi si vada a votare, sono Piero Grasso, proprio neoeletto presidente del Senato come prima ipotesi, oppure si fanno i nomi di Valerio Onida, Emma Bonino, Anna Maria Cancellieri, Fabrizio Saccomanni di Banca Italia o Enrico Letta, che però ieri ha smentito. Vabbè, diciamo, questo potrebbe essere lo scenario. Bersani invece come si prepara? Bersani, scrive Goffredo De Marchis, siamo sempre su Repubblica, pagina 3, è pronto e dice, ci crede, il mio sarà un esecutivo di cambiamento, un governo del cambiamento. Magari punta a un'astensione tecnica della Lega, a un esecutivo che metta insieme alcuni del Movimento 5 Stelle, SEL, scelta civica, quindi Monti per ottenere la fiducia. Si parte dal voto dal 24 e il 25 febbraio e dal candidato di quelle elezioni. Il cambiamento può guidarlo solo Pierluigi, dice per esempio lui stesso, e insomma pare voglia provarci. Questo almeno per Repubblica. Secondo La Stampa l'atteggiamento di Bersani è diverso. Il retroscena di Federico Geremicca, pagina 3, già dal titolo è molto chiaro. Bersani corregge la rotta e valuta il passo laterale. Il segretario potrebbe fare da regista, ma la vigilia dell'incontro che Bersani, insieme ai capogruppi Zanda e Speranza, avranno oggi col capo dello Stato, il PD sembra correggere un po' quella che era parsa fin qui la linea da tenere, cioè l'incarico pieno al segretario dei Democratici per tentare di formare subito un governo. Ieri il leader ne ha discusso fino a notte fonda con i fedelissimi Errani, Miglia Vacca, con Enrico Letta, Dario Franceschini. L'idea è quella di poter fare anche un passo al lato e fare un'esplorazione, ma poi affidare, e in questo caso torna al nome di Piero Grasso come ipotesi, per affidare a lui l'idea di fare un governo un po' più concreto, una sorta di governo di scopo. Questa è l'idea. Mentre Beppe Grillo, noi avremo ospite Massimo Cacciari alle 8:15, che ha detto io darei un anno di vita per assistere all'incontro tra Beppe Grillo e Napolitano. Beppe Grillo che per mesi ha attaccato anche il capo dello Stato. Ricordate che c'è stato anche il celebre quando Napolitano disse il boom del 5 Stelle, quando gli chiesero ma il boom del 5 Stelle, l'unico boom che ricordo è quello degli anni 60. E invece oggi si incontreranno faccia a faccia. Secondo il Secolo XIX, a pagina 4, l'articolo di Ilario Lombardo, Beppe Grillo avrà un nome da proporre. In realtà è top secret anche per il Secolo, non si azzarda neanche a farlo il nome, ma l'idea è quella di un economista a lui vicino, un economista, non si sa molto di più. In realtà quelli del Movimento 5 Stelle giurano non ci sono nomi che proporremo, e al limite i nomi per il candidato premier nostro li faremo dopo averli scelti collegialmente. Però no ai tecnici del PD, Grillo ha in mente un economista a lui vicino, il nome non viene dato a sapere neanche dal Secolo XIX, non si azzarda in nomi, ma avrebbe un nome da proporre a Napolitano. E invece Berlusconi è la terza forza politica che oggi andrà da Napolitano. Ieri ha fatto un'intervista dicendo ci vuole il governo di concordia nazionale. Ora tralasciamo e trascuriamo il nome, immaginate già governo concordia con quello che è successo con Schettino, come si sbizzarrirebbero tutte le ironie e le satire. Al di là di questo, il tema, quindi forse la scelta, la proposta del governo di concordia, forse era meglio un altro nome, però in ogni caso è l'idea, il governo delle larghe intese, il governo di unità, chiamatelo come volete, ha rilanciato, come scrive Libera, pagina 8, l'ultima chiamata di Silvio Bersani. Il leader del PDL salirà al colle, serve un esecutivo di concordia nazionale. Per questo, scrive in un altro retroscena il Messaggero, Berlusconi avrebbe anche una carta da proporre per il Quirinale, guardando un po' avanti, Beppe Pisanu. politico di lungo corso, ex del Popolo della Libertà, cioè del Popolo della Libertà, anche se, a dire la verità, nell'ultimo tempo si è anche molto smarcato, è stato anche critico nei confronti di Silvio Berlusconi negli ultimi tempi, Beppe Pisanu, ma insomma una lunga carriera, ex presidente del Senato, nell'ultimo anche ex presidente dell'antimafia, l'ex premier Berlusconi proporrebbe Beppe Pisanu, in qualche modo sarebbe il lascia passare, cioè un modo per voi ci date il qui, voi nel senso date la possibilità di avere al Quirinale una persona moderata, una persona di centrodestra, non l'occupazione di tutte le poltrone come ha detto due giorni fa Berlusconi, e allora si può anche vedere di appoggiare in qualche modo la nascita di un governo Bersani. Insomma, siamo così, siamo alle schermaglie, siamo ai bizantinismi, siamo a tutti i giochi della politica. Immaginatevi sempre fino alle 3 di notte le telefonate, gli incontri, le riunioni ai ristoranti per cercare di trovare una soluzione. Voi italiani vi svegliate, andate a lavorare, avete problemi, i debiti, le bollette, eccetera, e qui invece c'è da formare un governo. E come si fa? Con la politica, con le telefonate, con le chiacchiere, con le cene, con gli incontri. Che dire, intanto c'è ancora sulla questione delle spese, sì, dei tagli. Beh sì, c'è un imperdibile Antonio Razzi. Avete presente l'onorevole Antonio Razzi, quello che litiga anche un po' con l'italiano, è stato anche nostro ospite. Imperdibile su Repubblica, sui ventilati tagli agli stipendi dei parlamentari. Allora, visto che arrivano i tagli già annunciati dal Presidente di Camera e Senato, che dicono, anche se poi vedremo quali tagli, comunque dicono anche i deputati si taglino lo stipendio, è straordinario. Antonio Razzi su Repubblica, dove Tommaso Ciriaco va a sentire un po' gli umori dei parlamentari, li trovate a pagina 7, il titolo è Onorevoli tra rabbia e rassegnazione, sentite qui Antonio Razzi. È impossibile ridurci ancora, a meno che non andiamo a dormire in un sacco a pelo. Oppure possono ospitarci grillini a casa loro. Io già vado a dormire in un albergo a una stella che ha appena appena il bagno. Mi adatto perché vengo dal mondo operaio, altrimenti non mi rimane una lira. Ma chi è stato imprenditore come fa? Ecco, la lamentela dell'onorevole Razzi. Mi pare di vederlo questuante in giro per Roma a chiedere un giaciglio, un sacco a pelo almeno, glielo lasciate all'onorevole Razzi per cortesia, non tagliategli troppo lo stipendio. Lui già va negli alberghi a una stella, dove a malapena c'è il bagno. Mentre Gianfranco Rotondi dice non è una questione di denaro, prima dobbiamo riconsacrare il Parlamento che ha perso la sua sacralità, e poi parliamo di tutto il resto. E vabbè, intanto hanno pizzicato ieri, su chi hanno pizzicato, sembrava una scena da Prima Repubblica messa così, no? Hanno trovato l'onorevole Zaccagnini a mangiare al ristorante della Camera, eh? Vi ricordate Benigno Zaccagnini? E invece no, è l'onorevole del Movimento 5 Stelle Adriano Zaccagnini, pescato in una foto a mangiare al ristorante della Camera, luogo che, come dicevo prima, è assimilabile a Gomorra per i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, luogo da cui tenersi alla larga, e invece è stato pescato lì. E sapete cosa ha detto? Sì, è vero, ho speso 15 euro alla Camera, non sapendo che il resto del pasto, tipo 80 euro, è a spese del contribuente, cioè 15 euro lo mette chi mangia e il resto è a spese del bilancio della Camera, cioè nostre. E sapete che ha detto il rappresentante del Movimento 5 Stelle? Chiedo scusa, restituirò i soldi, ma non sapevo che il resto del conto andasse al contribuente. Ma come? Il conto a sua insaputa? Ma soprattutto il rappresentante del Movimento 5 Stelle non è credibile, perché il Movimento 5 Stelle giustamente ha fatto una campagna proprio su questi temi, e il rappresentante suo non sapeva che spendeva 15 euro ma il resto andava sul bilancio della Camera. Ma su questo il Fatto Quotidiano: Marziani sì, Fessi no, i 5 Stelle alla dura prova dei benefit. Vabbè, ci fermiamo, sennò poi arrivano i Peana e ci dicono che insultiamo il Movimento 5 Stelle, cosa che non è. C'è un Monti poi disgustato, questo è l'aggettivo che viene attribuito al Presidente del Consiglio per la sua... disgustato con chi? Con i suoi. Ieri si è presentato ai rappresentanti di Scelta Civica eletti, racconta per esempio La Stampa, ma trovate su tutti i giornali, è La Stampa pagina 3, lo leggo da qui. Mario Monti amareggiato, disgustato si sarebbe detto a porte chiuse, per cosa? Per le critiche lanciate nei suoi confronti dai parlamentari di Scelta Civica e riportate dai giornali, critiche che Monti considera irricevibili, avrebbe detto ai suoi: so di essere considerato in via d'estinzione, ma non vorrei essere estinto da chi ho contribuito a portare qui. E si è detto disgustato per Repubblica, addirittura si è presentato ai suoi eletti dicendo: e sono talmente disgustato che non avevo neanche voglia di presentarmi qui da voi, perché ha letto delle critiche da parte dei suoi deputati finite sui giornali. Io non cerco alcuna poltrona, sono disgustato. C'è chi vuole farmi fuori, così anche sul Libero Mario Monti molla il suo centrino. Voci disgustose su di me, smettetela di darmi del poltronaro. Così Monti, in tutto questo, mentre la politica sempre più nello stallo cerca di uscire da questa situazione, oggi trovate sul Sole 24 Ore l'appello ancora del presidente di Confindustria Squinzi, che ha detto: sbloccate per l'ennesima volta i 48 miliardi che le imprese aspettano da tempo dalla pubblica amministrazione. Una cosa allucinante, cioè sembra, ogni volta che uno lo dice sembra allucinante, cioè uno lavora e non viene pagato, così in questo caso le imprese con la pubblica amministrazione. 48 miliardi farebbero aumentare il PIL dell'1% in investimenti e potremmo sbloccare 250.000 posti di lavoro. Per la verità oggi il Sole racconta che c'è un iter tutto studiato del governo, che però ha un iter complicato. Non basta un decreto legge come ieri aveva annunciato il ministro Grilli, racconta Dino Pesole, che ci vuole prima un disegno di legge che deve andare alla Camera, perché ci vuole lo scostamento temporaneo dal percorso del pareggio di bilancio. Il governo deve fare questo disegno, bisogna fare questo disegno di legge che deve essere approvato da tutte e due le Camere, in cui si motivano e circoscrivono gli scostamenti indicando al tempo stesso i relativi piani di rientro. A quel punto si può fare un decreto legge, a quel punto ci vuole il placet dell'Europa. Auguri, eh? Insomma, questo è l'iter per arrivare allo sblocco dei denari che le imprese devono ottenere. Concludo con questa: io lo sapevo, maledetti, lo sapevo, l'ho sempre sospettato, ma ora c'è uno studio tedesco che va a rinforzare questa tesi. Vi si è rotta ieri la lavatrice? Il frigorifero vi si è rotto? Il cellulare vi si è guastato? Uno studio tedesco dice: questi elettrodomestici sono programmati per rompersi appena finita la garanzia. Maledetti, io l'ho sempre sospettato, lo sapevo, programmati per autodistruggersi. La vita breve di cellulari e lavatrici su Repubblica, ma anche sul Secolo XIX, oggetti programmati per rompersi. Due studiosi tedeschi all'attacco delle case produttrici: sono difetti pensati ad hoc, vi scade la garanzia tipo il 23 marzo, boom! Il 25 marzo la lavatrice, la centrifuga salta, non va più. Arriva l'idraulico e dice: qua è fuori garanzia, le consiglio di sostituirla. Lo sapevo, l'avevo sempre sospettato. '24 mattino, la politica nel tunnel. Eccoci, allora, sono le 8:17, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo ad approfondire la situazione, una situazione, come dire, oggi è il giorno decisivo? Beh, è il giorno decisivo per le consultazioni, questo sì, si entra nel pieno. Alle 9:30 Beppe Grillo andrà da Napolitano con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, poi alle 10:30 Berlusconi, il Popolo della Libertà, alle 18:00. Invece il Partito Democratico, Bersani, Berlusconi, Grillo. Il tema è: ma Bersani ce li ha i numeri? Riuscirà ad ottenere un mandato pieno o esplorativo, oppure dovrà fare un passo di lato, un passo in avanti, un passo indietro? Insomma, un gran bel casino, diciamo la verità. Tra l'altro, in un momento in cui l'agenda politica sembra dettata, questa è la mia opinione ovviamente, dal Movimento 5 Stelle. Ormai guardate anche l'annuncio dei tagli del 30% di Boldrini e Grasso, che poi non si capisce 30% di che. Ormai sembra un inseguimento a Grillo, al grillismo più sfrenato, cioè tutti che dicono che bisogna tagliare, tagliare, tagliare. Parleremo anche di questo magari più avanti. Insomma, di questi tagli, tagli effettivi, tagli veri, è un inseguimento, un tentare di blandire in tutti i modi il Movimento 5 Stelle? Ne parliamo con Massimo Cacciari, che saluto. Buongiorno, professor Cacciari. Eccoci. Buongiorno. Saluto anche un deputato del Partito Democratico, Matteo Mauri. Buongiorno, onorevole Mauri. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, professor Cacciari, è un gran bel casino questo, eh? Beh, sì. Abbastanza. È un casino che si protrae nel nostro paese da circa 25 anni. Quindi, quindi siamo alle pila, a redderazione. Senta, lei ha detto che avrebbe dato e darebbe un anno di vita per vedere, per assistere all'incontro tra Beppe Grillo e Napolitano. A parte che quel satanasso di Grillo magari se ne va con un microfono aperto e sentiremo tutto. Che si diranno? Insomma, che si diranno? Che si diranno? Credo che ci siano anche controlli infatti. Al Quirinale. Che succederà? Che cosa si può ipotizzare di questo incontro? Ma il presidente lo conosco un po' da qualche decennio. Grillo l'ho incontrato una sola volta in vita mia. È chiaro che le due figure sono assolutamente incompatibili per storia, per carattere, per cultura, per tutto. Napolitano ovviamente cercherà di verificare se vi sono dei margini politici, di programmatico-politici di intesa con Grillo da parte di Bersani, ovviamente, perché credo che vista la posizione della direzione del Partito Democratico sarà Bersani comunque il loro candidato. Sì. Quindi bisogna vedere se Napolitano cercherà di capire se vi è un minimo margine, poi cercherà di capire se vi è un margine per un'altra persona del PD che non sia Bersani, e dopodiché prenderà atto della cosa. Ma voglio dire, non cambia niente, poverino, cosa vuole che cambi? È chiaro che se anche si varasse un governo, cosa credo possibile, perché credo che nessuno voglia andare a casa, né i grillini, né la Lega, né nessuno, quindi credo che sia possibile che Bersani abbia poi un voto di fiducia, credo realisticamente possibile che lo abbia, ma di certo chi? Cioè, vuole che faccia un governo con un voto di fiducia di questo genere al Senato? È chiaro che è una situazione insostenibile. Sì, sarebbe molto precario. Il governo non sarebbe in grado di fare assolutamente sì, nulla. Sì, ma mi scusi Cacciari, vorrebbe dire che qualcuno del Movimento 5 Stelle dà la fiducia, proprio perché sennò... Ma guardi, basta andare avanti 3-4 mesi che 20-30 deputati del Movimento 5 Stelle mollano il capo, ma è evidente. C'è una logica, al di là del fatto che dopo 3-4 stipendi che beccano, sa, molti di loro, adesso con rispetto parlando, insomma... Dal nulla vengono e dal nulla sanno che torneranno se questa legislatura chiude. Ma al di là di questo c'è anche una logica parlamentare, c'è un meccanismo parlamentare per chi lo conosce, che sai benissimo, e dopo conosci gli altri senatori, gli altri deputati, entri in un gioco, ma anche in senso positivo. Insomma, qualcuno dovrà, tra virgolette, tradire, secondo me. Sì, loro. Ma non cambia, ma andiamo alla sostanza, non cambia assolutamente nulla. Ma no, ma certo, possono tradire in 20, in 30, in 40, è una maggioranza inesistente al Senato, quindi è chiaro che è un governo che non potrà fare nulla se non... di ciò che è necessario in questo paese. Questo è il punto fondamentale che dovrà affrontare anche la politica. Ma infatti la sensazione... Sta di fronte a una situazione in cui non c'è la possibilità di fare un governo che faccia qualcosa, non un governo X. Le chiedo, professor Cacciari, non è che Napolitano infatti vorrà sapere da Beppe Grillo non tanto l'appoggio a Bersani, che questo l'ha già detto, no, ma dire in camera caritatis, senta Grillo, se io le propongo, che ne so, Grasso, se le propongo Onida, se le propongo, cioè dare due o tre nomi, come dire, capire, portarsi già avanti, ecco, diciamolo chiaramente. Verificato che l'indisponibilità per Bersani, verifica la disponibilità per qualche altro candidato, o di area PD, oppure comunque di area centrosinistra, eccetera, verificherà quella condizione. Può essere che Grillo si dimostri un po' più disponibile, ma non cambia, perché comunque si forma un governo che non ha una maggioranza politica. No, ma è chiaro, quello sarebbe un governo che dovrebbe fare la riforma elettorale, il cosiddetto governo di scopo piuttosto che di sei mesi. Facciamo la riforma elettorale e si va a votare. Ma cosa mi racconta? Sono quattro anni che ci sono maggioranze politiche anche forti e che non riescono a fare nulla. Che dobbiamo fare? Allora, cioè, che possa fare con gli stessi partiti che erano prima, eccetera, eccetera, oltre Grillo, che certo non è un elemento d'ordine. Cosa vuole che possano fare in sei mesi quello che non sono riusciti a fare in anni? Cosa facciamo, professor Cacciari? C'è qualcosa? Possibilità è un governo istituzionale. Istituzionale. Di nuovo. Un governo istituzionale di nuovo. Del presidente, con un mandato con un mandato invece di carattere eminentemente tecnico, finanziario, economico come quello dato a Monti, con un mandato a un governo tecnico fuori da ogni gioco di partito, di fare una o due cose: la legge elettorale e affrontare le emergenze di carattere economico, sociale che stanno diventando tragiche, non drammatiche. E chi lo dovrebbe guidare? E tornare a votare tra un anno. Chi lo dovrebbe votare? Chi lo dovrebbe guidare, secondo lei, così come figura, non tanto il nome e cognome? Non so, questo mi affido alla saggezza di Giorgio Napolitano, è l'unica persona che ragiona in questo paese da qualche anno. Allora, onorevole Mauri, Partito Democratico, queste sono le posizioni del professor Cacciari. Oggi, se lei ha già letto i giornali, ci sono le versioni più disparate: Bersani che ci proverà, Bersani che dirà, Bersani, secondo la stampa, pronto anche a fare un passo al lato. Secondo lei, in questo impasse istituzionale, cosa si fa, Mauri? Ma intanto, se si segue il ragionamento del professor Cacciari, però ci troviamo di fronte a una situazione da cui non se ne può uscire, senza speranza. Io non credo che noi siamo in una condizione senza speranza, bisogna dirlo anche ai cittadini, siamo in una condizione difficile sicuramente, dove però noi stiamo cercando, con Bersani, di fare la nostra parte. Perché altrimenti, se noi diciamo che non si può fare la legge elettorale, per cui questo vuol dire che se non c'è nessun governo possibile che possa fare cose concrete e non si può fare la legge elettorale, si ritorna tra poco al voto con questa legge elettorale rischiamo di ridare agli italiani la stessa situazione. Il governo istituzionale del Presidente, che non avrebbe un sostegno politico, come si diceva fosse necessario per fare le cose, probabilmente non risolverebbe le cose. Allora io credo che Bersani stia facendo la cosa giusta, ma secondo me anche, come dire, la cosa giusta per dare una risposta agli elettori che hanno votato in maggioranza al centro-sinistra. Sì, ma onorevole, questo scoglio della fiducia, cioè voglio dire, lei dice ci deve provare, fa la cosa giusta, questi otto punti, ma dall'altra parte vi dicono che questi otto punti sono fuffa, ve l'hanno detto in tutte le lingue, cioè questo è il parere ovviamente del Movimento 5 Stelle. Cioè, come... Infatti si dice, si fa un incarico esplorativo, si verificano le condizioni e poi si torna al Presidente della Repubblica, che rimane il punto di riferimento. Ma in queste esplorazioni, perché... spieghi agli ascoltatori, in queste esplorazioni che succede? Perché è più chiaro di così, cioè non vi votiamo la fiducia, che succede? Si chiamano uno a uno i parlamentari e si dice raccomando... Noi, perché altri l'hanno fatto, noi questa cosa non la facciamo, si tratta di rapporti politici con chi rappresenta i gruppi e i partiti, non si tratta di altro. Bisogna mettersi il caschetto, quello dell'esploratore, e cercare di verificare se sono le condizioni politiche, ma su cosa? Non su fare il governo per fare il governo, ma per fare in tempo limitato alcuni provvedimenti essenziali. Quinzi oggi, per dire, diceva bisogna sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione per le aziende, altrimenti qua crolla tutto e vengono strangolate anche le imprese che non solo hanno diritto al pagamento ma sono sane. Questo è un problema del paese e dell'occupazione. Ci vogliono gli appelli del presidente di Confindustria per capire questa cosa, cioè che finalmente sta tirando fuori questo problema a livello... Mi permette di dire che l'abbiamo detto in campagna elettorale, però sto dicendo questa cosa è una priorità o no per il paese? Cito Squinzi non a caso. Certo che è una priorità del paese, mettiamo in fila cinque cose e facciamo queste cinque cose e vediamo cosa succede. Se qualcuno dice di no, però, cioè, la responsabilità è di chi dice no. Non è di chi Questo è un punto interessante. Professor Cacciari li vede con l'elmetto dell'esploratore e a dire poi la responsabilità è di chi non vuol far partire questa macchina alla fin fine. Ma certo che esploreranno. Io non ho... non è che sia abituato a essere compreso, in particolare dagli amici del Partito Democratico, quindi non mi stupisce, ma io non ho affatto detto una prospettiva disperata, ho detto che la prospettiva di un governo politico, di una maggioranza politica non esiste, che l'unica prospettiva che vedo è un governo varato dalla responsabilità, dall'autorevolezza di Napolitano, che tra tutto nel mondo politico oggi è l'unico ad avere un minimo di credibilità e di rappresentatività, e Napolitano mette in campo un altro governo di carattere tecnico, ma diversamente tecnico rispetto a quello Monti, che ha alcune emergenze sociali da affrontare, tra cui quella che diceva l'onorevole Mauri, quella appunto riguardante le imprese che stanno fallendo eccetera eccetera, e eventualmente, se ce la fa, la riforma elettorale. Un mandato specifico, un governo tecnico presieduto da una persona fuori dal gioco partitico eccetera, Grillo fa una fatica tremenda a non votarlo, sì, chiaramente, sì. Mentre va a nozze a non votare Bersani. Primo, okay, perché è uno sconfitto, lo diciamo o non lo diciamo, o ci raccontiamo le palle? Ha perso, quindi. Ma è evidente che ha perso, è l'unico che ha clamorosamente perso, va bene, anche all'interno del suo partito, perché è palese che se c'era Renzi le cose andavano diversamente, quindi è doppiamente sconfitto. Quindi cosa vuole che Grillo dia la fiducia a Bersani? Cosa investe su uno che è comunque sconfitto, che farà questo passaggio e poi è finito? Diciamoci le cose senza diplomatese, senza politichese, piace a noi. È chiaro che se vogliamo avere una fiducia, possiamo averla anche, come dicevo prima, Bersani può averla, ma può averla attraverso 4, 5, 10, come è stato votato Grasso, che non vogliono andare a casa, appunto. Vuole che un governo di questo genere possa poi combinare qualcosa? È la situazione un po' prodi del 2006. Che non ci sono prospettive. Dico, e posso sbagliare, che la prospettiva unica che vedo di un governo che possa fare qualcosa è di nuovo un governo tecnico. Ma aggiungo e chiudo, ci saranno i tempi, perché adesso c'è l'esplorazione, c'è questo, c'è quest'altro, tra breve Napolitano non può più dare l'incarico a nessuno. Infatti, la questione è questa. Allora tutto viene rinviato al prossimo e quindi si perdono altri mesi, dei quali possiamo andare a 500 di spread, a 600, a 1000, eccetera, eccetera. Può succedere un casino dell'inferno. Non sarebbe stato il caso, invece di votare quello che si è votato nella direzione del Partito Democratico, fin d'ora, rendendosi conto della situazione, diciamo così, non iniziare con Bersani, che era la carta più debole che il Partito Democratico, cioè fare subito il cambio ancora prima di iniziare. Beh, questa è una delle ipotesi che qualcuno ha detto, ma ormai siamo entrati in questa situazione in cui Bersani invece ha detto ci voglio provare, ci devo provare. Riprendiamo tra 5 minuti, 800 24 00 24, con noi Massimo Cacciari, l'onorevole Matteo Mauri, ci raggiungerà anche Marco Ferrante, commentatore del Messaggero, per capire insomma anche questi tagli, questa corsa al grillismo, tutti adesso che vogliono tagliare, ci taglieremo il 30%, ci taglieremo il 50%, in realtà poi oggi si scopre sui giornali che se va bene taglieranno il 7% dello stipendio di Presidente di Camera e Senato, ma lo spiegheremo tra un attimo. 24 mattino. Eccoci, allora, il giorno delle consultazioni, quelle decisive, quelle importanti, quelle calde. Siamo con Massimo Cacciari, con l'onorevole Matteo Mauri del Partito Democratico. Con noi ci ha raggiunto anche Marco Ferrante del Messaggero, che saluto. Buongiorno Ferrante, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Allora, visto che uno dei temi che si intreccia a questo, secondo me, è la corsa sfrenata al grillismo, tutti che annunciano tagli, poi vedremo, c'è anche un giallo su questi tagli annunciati di Presidente di Camera e Senato, dicono il 30%, ma tutti a dire, ma il 30% de che? Perché c'è lo stipendio di un Presidente della Camera, si compone di varie voci, allora se si può tagliare solo l'indennità di Presidente, si arriva, secondo Libero, a tagliare al massimo il 7% del totale. In ogni caso, ieri Marco Ferrante ha scritto un articolo molto, molto documentato sul bilancio da quant'è? 1 miliardo e 87 milioni della Camera? Circa. Circa. E lì si va a rendicontare le caramelle, come vogliono. Dove possono tagliare? Ma come sempre quando si parla di spesa pubblica, il grosso della spesa sono le spese per gli stipendi e le pensioni, cioè di quel miliardo 800 milioni servono a pagare gli stipendi dei deputati, le pensioni dei deputati, ma soprattutto stipendi e pensioni dei dipendenti della Camera, cioè quella sì una vera dimensione castale, corporativa, assolutamente ingiustificabile. Infatti su quella l'abbiamo detto, cioè hanno degli scatti che neanche scatti di anzianità, diciamo così, che neanche su Plutone si vedono, no? Sì, basti pensare che rispetto alla media degli omologhi dipendenti statali, i dipendenti di Camera e Senato hanno stipendi di 3,5 volte superiori, quindi assolutamente ingiustificati anche in nome, come possiamo dire, della funzione di garanzia che dovrebbero svolgere, perché non ci dimentichiamo che quegli stipendi avevano una giustificazione, diciamo così, amministrativa, che risiedeva in una forma di garanzia di autonomia e indipendenza anche per i dipendenti che si occupavano di l'azione, non soltanto per i deputati. Però mi pare di capire che di quegli 800 milioni si può tagliare solo per legge, quindi è una procedura complessa, complicata, eccetera. Una parte si possono tagliare per provvedimenti amministrativi, perché c'è tutta la parte dei rimborsi, tutte le spese le indennità, gli stipendi, diciamo così, dei deputati sono fatti in parte di una cosa che può essere modificata soltanto dalla legge, e una parte invece che è quella appunto dei rimborsi, sulla quale invece si può procedere per via amministrativa. È che però ci sono poi quelle spese, 930.000 euro per gli ascensori, 100.000 euro l'anno per il guardaroba, 950.000 euro per il trasporto degli eletti all'estero. Bisognerà dire un giorno che questa del fare legge all'estero, pace all'anima dell'ex ministro Mirko Tremaglia, ragazzi, è stata un disastro clamoroso. Oppure cosa? 420.000 euro per materiali di consumo per sistemi informatici, altro che caramelle lì da tagliare, Ferrante. Sì, però ecco, su questo bisogna dire una cosa, perché sennò poi si cade nella demagogia. La sensazione che ho io è che quei 163 milioni su cui si può intervenire, il rendiconto delle caramelle, appunto, come dicono i grillini, è una questione sicuramente importante, ma è puramente simbolica. Cioè, non ci dimentichiamo che l'intero bilancio della Camera vale un ottocentesimo della spesa pubblica, cioè lo 0,12%, non ha nessun impatto sui nostri conti pubblici, sul debito, eccetera, però ha un fortissimo valore simbolico. È un impatto mediatico. Ecco. Sì, diciamoci una cosa francamente, le classi dirigenti su questa storia dei simboli devono imparare a ragionare, perché poi alla fine sono i simboli che le travolgono. No? La vicenda Grillo, il boom grillino, che risponde naturalmente al disagio reale di un paese in recessione e con un modello di società in grande difficoltà, questo è verissimo, però poi cavalca una vicenda simbolica che è quella lì anticastale. E che è quella, il grimaldello. Infatti vorrei dall'onorevole Mauri, il Partito Democratico, e poi da Massimo Cacciari porre questa domanda. Onorevole Mauri, non state inseguendo troppo Beppe Grillo, il grillismo e il Movimento 5 Stelle per ottenere ovviamente anche, c'è la fiducia in ballo, quindi tutti i mezzi sono buoni. Ma io credo che il tema dei costi della politica ci fosse anche prima che arrivasse Grillo ed era già stato messo all'ordine del giorno. Sicuramente la presenza di Grillo e la sua campagna elettorale ha spinto in quella direzione, ma io credo che soprattutto sia la condizione dell'Italia e degli italiani che la mettono in tutta evidenza, per cui il punto non è rincorrere Grillo, che di per sé sarebbe sbagliato. Il punto è dare una risposta agli italiani e dimostrare che la politica ha l'autorevolezza per fare delle scelte che magari possono essere anche complicate, dure, difficili, ma perché per prima se le carica sulle spalle. Quindi il cambiamento è più una risposta agli italiani. Dice. Professor Cacciari, lei onestamente, con la sua proverbiale franchezza, quando ha visto questo annuncio ci tagliamo il 30%, ci tagliamo gli appartamenti, lavoreremo da 48 a 96 ore settimanali, che poi era la somma, perché 96 ore settimanali vuol dire 20 ore al giorno, cioè una rincorsa sfrenata, che ha pensato? ho pensato quello che penso sempre quando ci sono queste sparate che non significano assolutamente nulla. Adesso le dico semplicemente, sono temi che sono nell'agenda, sì, tutti i temi che stiamo discutendo sono nell'agenda da 20 anni, e il problemino è che su questa agenda è rimasta agenda, cioè qualcosa da fare e nulla di fatto. Questo è il punto fondamentale, per cui non se ne può più. E questi ammennicoli, più o meno appunto all'inseguimento di Grillo, di questo e di quello, non cambiano assolutamente nulla. Vuole rifare l'elenco di come si risparmia sui costi della politica? Benissimo, l'elenco è presto fatto. Primo, la famosa riforma per cui tu elimini il Senato, lo sostituisci con una Camera delle Regioni, con un Senato delle Regioni che non costa niente, perché lì ci siedono i rappresentanti delle Regioni che già prendono lo stipendio perché sono dei consiglieri regionali, sì. Una Camera dimezzata di numero, bene, dopodiché puoi rivedere gli stipendi che contano appunto come il 2 di bastoni quando vai ad Anari, cioè non contano assolutamente un cavolo per quanto riguarda i costi complessivi della politica. Poi cosa fai ancora? Poi riduci della metà tutte le assemblee elettive, tutte, perché è assurdo che ci siano consigli regionali di 60, 70, 80, 90 persone, è totalmente demenziale, quindi dimezzi tutte le assemblee legislative. Poi andiamo avanti. Che bella agenda, che bella agenda, professore. Rivedi, quasi eliminando il finanziamento pubblico dei partiti, dove c'è stato un referendum. Certo, nel 93. Che è passato come acqua fresca, un referendum. Dopodiché non sono questi i costi della politica, vogliamo capirlo finalmente. Togliere una camera. Un secondo. Non sono questi, finiamola con questa demagogia di cacca. Finiamola una volta bene, cerchiamo di ritenere che gli italiani siano anche persone in grado di comprendere e ragionare e non soltanto andare avanti a simboletti del cavolo. Allora, i costi della politica sono il mancato funzionamento della politica, le leggi che queste Camere hanno prodotto in questi 20 anni, che impediscono alle imprese di funzionare, agli enti locali di funzionare. Questi sono i veri costi della politica. La burocrazia. I costi della politica sono queste società partecipate dove in ogni comune i trombati vengono messi lì. In ogni comune dove ci sono i sindaci che devono eleggere decine di consigli d'amministrazione. Dica la verità, dica la verità. Nella Russia bolscevica. Dica la verità, professore, anche lei da sindaco di Venezia ne ha dovuti mettere di trombati della politica. Non ne potevo più e lo dicevo, è uno scandalo che io debba nominare decine di consigli d'amministrazione dove ci vanno dentro chi vuole che ci vanno dentro, ci vanno dentro politici di fatto, sono politici che ci vanno dentro nei consigli d'amministrazione delle partecipate. Ma perché uno non può dire di no? Perché uno non può dire di no? Lei un giorno si è alzato magari da sindaco e ha detto no, io questo trombato non lo metto qui. E infatti cercavo di metterne meno possibile, ma il sistema è questo, non c'è niente da fare, non può essere una persona che si alza e fa, è il sistema che è così. Il sistema, però già... allora, è molto semplice, l'ho chiesto 20 volte da sindaco, fate una legge che obblighi alla liberalizzazione delle partecipate, che ci costringa, perché veda, in un consiglio comunale, quando io mi presentavo e dicevo adesso liberalizziamo questa società, adesso vendiamo il Casinò di Venezia, adesso vendiamo la nostra partecipazione all'aeroporto. C'era quello che s'alzava. Il centrodestra e il centrosinistra compatti che mi venivano addosso. È chiaro. Maggioranza e minoranza. Sono tutte poltrone. Vedi adesso cosa sta succedendo al comune di Bologna. Col referendum contro il sindaco, perché dicono che appunto non può dare i soldi agli asili privati, che sono quelli che garantiscono il mantenimento del servizio in tutti i comuni, perché se non ci fossero gli asili privati tu non potresti soddisfare la domanda di asilo. No, ma è chiaro, ma guardi che lei già ha messo un po' sull'agenda, cioè ci fosse anche solo la cancellazione di una delle due camere, ma sa poi la questione come si snellirebbe tutto, il bicameralismo che salta e basta, le leggi che devono andare di qua di là, se uno cambia una virgola devono passare in seconda lettura, già questo sarebbe straordinario. Ma poi togliere sì le società partecipate, vabbè, guardi, le dico che c'è già, arrivano i messaggi: Cacciari, mettiamolo al Quirinale, premier, ministro, eccetera, presidente del consiglio, chissà, mi sa che non ne vuole sapere, però. Eccoci, eccoci. Allora, gli ascoltatori 800 24 00 24. Luigi da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica, Luigi. Salve. Due cose, due sole cose. Sì. Cioè, sento da mesi, da un mese, voglio dire, tutti gli esponenti del PD dire che Bersani ha il diritto di provarci. Siccome si sa che questo, voglio dire, Cacciari l'ha detto, questo governo non è possibile farlo, ma qualcuno vuole dire che questo paese ha il diritto di essere governato? Beh, ma cioè, il diritto di provarci vuol dire andare lì e dire ho vinto le elezioni, anche se di poco, non come volevo, e ma, quindi voglio, mi dia, Presidente, la possibilità di verificare. Perché noi non ce lo vogliono fare votare questo PD? La verità è questa, cioè Bersani fosse una persona veramente seria, si metterebbe da parte lui, la sua storia, tutto quello che ha fatto. E che farebbe, invece, secondo lei? Che dovrebbe fare? Si mette da parte, si può andare alle elezioni, si poteva dare un altro nome, cioè lo state dicendo da un mese, si può fare di tutto, cioè si può... Ma alle elezioni con questa legge? Guardi che c'è stato... Cioè ci sono state delle elezioni, c'è un Parlamento che è legittimato, non... Lei sa benissimo, Milan, se si andasse alle elezioni oggi, Grillo prenderebbe un altro 10%. Cioè, questo bisogna. Ma poi che poi questo possa essere un dramma o meno, però se quelli del PD iniziassero a rendersi conto che facendo le persone serie veramente le avrebbero vinte queste elezioni, facendo delle primarie serie, voglio dire, è un tragitto. Vabbè, lei è un renziano, si è capito, lei è un renziano. Comunque, Luigi, secondo lei Bersani sbaglia, insomma, a dire, dovrebbe farsi da parte. Grazie. Andiamo a Genova da Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Due cose volevo fare. Intanto la ringrazio e concordo su quasi tutte le cose dette da Cacciari, compreso il fatto che tutti questi tagli, queste rinunce ai rimborsi elettorali da parte di Grillo e tutto sono bufale bestiali, perché sono crediti che rimangono comunque in piedi e pronti. Bene, il rimborso elettorale è l'unica cosa che Cacciari dice effettivamente va tolta. Comunque dica, Stefano. No, infatti va tolto, ma chi dice che ci rinuncia senza fare degli atti concreti, senza dire una destinazione, è una puttanata bestiale, perché sa che fra 6 mesi può sempre andarli a riscuotere. Ma guardi, non è vero, adesso non è che devo difendere, il Movimento 5 Stelle non è vero, non li prende questi rimborsi elettorali. Adesso, no, almeno non li prende, rimane un credito esigibile pronto a cassa, non come i crediti delle aziende che hanno fornito beni e servizi. Allora, almeno una cosa è certa, non li prende, non li prenderà mai, questo andiamo avanti, poi è criticabile per altre cose, però lei che voleva dire? Comunque io una cosa volevo chiedere, a che titolo è che Grillo va a accompagnare i rappresentanti? È il presidente del Movimento 5 Stelle, come da statuto depositato da un notaio. Ho capito, cioè, lo sa che in questo statuto c'è lui, suo nipote, suo commercialista, certo. E basta. Non ci sono milioni. Sì, certo, è uscito sui giornali. Beh, un movimento. È quell'associazione lì che rimane titolare di un credito da parte della. Quindi lei dice prima o poi li prenderà. Vabbè, comunque va a titolo di questo. Lei è certo, è presidente del Movimento 5 Stelle, quindi va da Giorgio Napolitano. La ringrazio, Stefano. Vorrei tornare per un attimo da Marco Ferrante. Allora, Cacciari dice: ma sono qui squiglie queste. Però effettivamente saranno simboli, ma 100.000 euro di guardaroba fanno un po' incazzare. Uno quando li vede così dice: come è possibile che. Passa anche da questi simboli la corsa. Il grillismo, Ferrante? Sì, io credo di sì, cioè, ovviamente sono d'accordo con Cacciari, cioè, è ovvio che la buona politica non è quella di rincorrere questa roba qui, ma il vero danno di una cattiva politica è quella di non fare politica, su questo non ci sono dubbi. Ciò detto però, è che la gente, la gente lo ribalta e dice: se la politica manco 100.000 euro di guardaroba riesce a cancellare, figurarsi quello che chiede il professor Cacciari, figurarsi se tolgono una camera, figurarsi se tolgono le partecipate, se manco riescono a tagliare 10.000 euro lì. Ma certo, io vorrei aggiungere a questo un altro elemento. Noi trascuriamo spesso che tutte le cose che dice Cacciari sacrosante, cioè diciamo lo snellimento complessivo del sistema istituzionale fatto di province, assemblee elettive pletoriche, tutto quello che vogliamo, consigli circoscrizionali, diciamo dalla base fino alla cima della piramide, è una cosa che coinvolge, secondo alcune stime, 1 milione di persone. Cioè in Italia c'è 1 milione di persone che vive di indotto politico, cioè una grande corporazione. Questa corporazione vive di circa, mal contati, 6 miliardi di euro, cioè quasi un punto percentuale di spesa pubblica. Cioè, parliamo di cose che sono molto ingenti e che, nei confronti delle quali qualunque tentativo di riforma si scontra quotidianamente contro le resistenze di questo esercito, diciamo la verità. Dovremmo fare tutte queste cose, ma dovremmo poi avere il coraggio di batterci a viso aperto contro quelle corporative. E aggiungo un'altra cosa. Quel pezzettino, io non credo che gli italiani siano così buoni, mi spiego, quel pezzettino di sistema corporativo di cui la politica si nutre poi, no? È fatta, non è diverso dall'esercito dei baby pensionati. Cioè, la verità in un sistema in cui attraverso una serie di provvedimenti di legge che tra gli anni 70 e 80 hanno fatto esplodere la spesa pubblica, rendendola una cosa assolutamente incontrollabile, ma di quella spesa pubblica si nutre il paese. Non è che sono dei marziani, questo miliardo, sono italiani, sono italiani che vivono all'italiana, e ci siamo capiti quando vuol dire all'italiana. E vorrei ricordare una cosa su questo punto, che è una cosa spesso trascurata: la metà della spesa pubblica italiana viene utilizzata per pagare pensioni e stipendi, pensioni di 20 milioni di pensionati, stipendi di 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici. Qui apri però un capitolo che sarebbe da affrontare in maniera più ampia, non è neanche escluso che lo faremo presto. Per il momento io mi devo fermare, vi devo ringraziare tutto dal professor Massimo Cacciari, all'onorevole Matteo Mauri del Partito Democratico e Marco Ferrante del Messaggero. Che dire, potete riascoltare tutto su radio24.it, potete anche seguirci, il mio profilo Twitter è Alino Milan. E 24 mattino invece è quello della trasmissione. Da tutti, da Miriam Lucchetti, da Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, da Valentina Magri, dal nostro Carmelo Lauricella, l'appuntamento è rinnovato a domani. Siamo in onda domani, che giorno è? Venerdì, sì, alle 6:30. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.